Savonarola, il frate che fece tumulto a Firenze, stagione 2, un programma prodotto da e per Radio Big World. In realtà sono prose scelte scritte da Pasquale Villari, che visse in un'epoca in cui la conoscenza umana raddoppiava ogni secolo. Poi, però, dalla Seconda Guerra Mondiale la conoscenza umana ha cominciato a raddoppiare ogni 25 anni, tanto che sono lette da me oggi in un'epoca in cui la conoscenza umana raddoppia ogni 13 mesi e si stima che la mia generazione arriverà a vederla raddoppiare ogni 12 ore. D'altra parte dice il proverbio: chi ricorre a poco sapere ne riporta cattivo parere, e comunque quando il villano è sul fico non conosce né parente né amico. Serio, capitolo 3, volume 2, Bastiglia. L'esperimento del fuoco, o piuttosto le trame ordite in quel giorno dagli arrabbiati, sortirono il fine desiderato. La città intera sembrava divenuta avversa al Savonarola e al suo convento. Il minuto popolo non sapeva perdonargli che, anche senza il francescano, non fosse entrato nel fuoco per fare con un miracolo tacere finalmente i suoi nemici. I piagnoni non seguivano il Savonarola in tutte le sottili distinzioni sulla poca opportunità del tempo, sul non tentare il Signore, sulla buona o cattiva fede degli avversari, ma piuttosto cominciavano per la prima volta a dubitare della sua soprannaturale potenza e a prestare più facile orecchio alle voci e calunnie degli arrabbiati, i quali spiegarono in questi giorni un'attività incredibile. Erano in continuo colloquio coi signori e coi canonici del Duomo. Si vedeva ben chiaro che apparecchiavano qualche nuovo e più decisivo colpo. Nel medesimo tempo quei seguaci del frate, che avrebbero potuto comprendere e render vane le trame dei nemici, si trovavano troppo deboli di numero e di forza per poterle combattere efficacemente, onde tutti erano per ogni dove insultati coi nomi di ipocriti e gabbadei. Non potevano più andare per le vie di Firenze senza pericolo. In tale stato di cose, alcuni del Partito Popolare, scorgendo i segni precursori di una gran tempesta, riunitisi insieme, proponevano di metter mano all'armi e prendere il vantaggio d'essere i primi ad assalire i nemici. Ma i più fedeli discepoli del Savonarola, e principalmente Francesco Valori, si opposero fortemente a questo partito, dicendo che non dovevano essi cominciare a spargere il sangue cittadino, né essere i primi a macchiarsene le mani. Ed avendo potuto far vincere questa loro opinione, molti ne rimasero assai sdegnati, tanto che Luca degli Albizzi, uno dei più caldi nel voler prendere le armi, andò via da Firenze dicendo: quando non si vuol venire ai fatti, ognuno ha il diritto di porsi in salvo. La mattina del Dio 8 aprile, Domenica delle Palme, passò tranquilla, ma un occhio accorto scorgeva chiaramente quel cupo silenzio che precede la tempesta e poteva stimare gran ventura che ancora non fosse seguita alcuna novità. Il Savonarola fece in San Marco un sermone molto breve e tutto pieno di tristezza, nel quale offeriva la sua persona in sacrificio a Dio e si dichiarava pronto a sopportare la morte per il bene del suo gregge. Assai mesto licenziossi dal popolo e nel dare la sua benedizione pareva che sapesse di parlargli per l'ultima volta. Il giorno i piagnoni andarono a San Marco, dove si celebrava il vespro, e poi si avviarono al Duomo, ove doveva predicare Fra Mariano degli Ughi, quel medesimo che, insieme con Fra Malatesta e Fra Domenico, si era offerto a sostenere la prova del fuoco. Ma nel seguire il loro cammino i piagnoni furono più volte assaliti da colpi di pietre. Incontrarono gruppi di arrabbiati che, pieni d'audacia, pareva dicessero: «Finalmente ci siamo!». Ne videro altri che tiravano sassi alle finestre d'Andrea Cambini, seguace del Savonarola. Giunti al Duomo, le panche erano già occupate da molta gente, ma innanzi alla porta s'erano raccolti i compagnacci che, insultando chiunque entrava in chiesa, dicevano che la predica non avrebbe luogo. E cominciandosi dall'altra parte a rispondere che la predica vi sarebbe in ogni modo, d'una parola si passò ad un'altra e i compagnacci vennero subito ai fatti. Sguainarono le armi, corsero addosso a un certo Lando Sassolini e, sebbene non lo ferissero, bastò quella violenza per levare il rumore in tutta la città. I piagnoni tornarono subito verso casa per armarsi. Alcuni dei compagnacci si impadronirono dei canti delle vie e tutti gli altri percorrevano la città gridando: «A San Marco! A San Marco col fuoco!». Si riunirono poi nella piazza dei Signori e, quando furono in numero sufficiente, mossero con le armi in mano e con grida disperate verso San Marco. Per via incontrarono un tal Pecori che tranquillamente se ne andava alla Santissima Annunziata recitando salmi. Subito gli furono dietro dicendo: «Ancora ardisce di mormorare l'ipocrita!», e raggiuntolo sulle scale degli innocenti, ivi lo finirono. Un povero lavorante d'occhiali, uscito al rumore di questi fatti nella strada con le pianelle in mano, mentre che cercava con le parole metter pace, fu da un colpo di spada sul capo ammazzato. Così avvenne ancora di altri, e in questo modo, eccitata dal sangue e la moltitudine degli arrabbiati, giunse nella piazza di San Marco. Qui vi trovarono la chiesa ancora piena di gente che aveva celebrato il vespro ed era sempre in orazione. Vi tirarono dentro una furiosa grandine di sassi, al che lo spavento fu generale, le grida delle donne echeggiarono strepitosamente e tutti si diedero alla fuga. In un momento la chiesa era vuota, le porte d'essa e del convento chiuse e sbarrate. Dentro non vi rimasero che i pochi cittadini i quali volevano difendere San Marco. Costoro arrivavano appena al numero di 30, ma erano dei più caldi seguaci del Savonarola, quei medesimi che lo avevano accompagnato alla predica, prontissimi sempre ad esporre per lui la vita. Si erano da più giorni avveduti del pericolo che correva il convento, onde la notte non mancavano mai 8 o 10 di loro a farvi la guardia. Istigati poi da Fra Salvestro e da Frate Francesco de' Medici, che lo facevano ad insaputa del Savonarola e di Fra Domenico, perché li sapevano avversi a quei disegni, essi avevano segretamente introdotto molte armi in una stanzetta del chiostro. V'erano in circa 12 corazze e altrettante mezze teste, 18 partigiane, 5 o 6 balestre, rotelle e targoni, 4 o 5 archibusi. V'era un barile di polvere e palle di piombo, pare anche 2 piccole bombarde. Francesco d'Avanzati, che aveva fornito quasi tutte queste armi e che trovavasi allora nel convento, le cavò fuori, dando a ciascuno quelle che meglio sapeva maneggiare. Egli, insieme con Baldo Inghirlami, diresse alquanto la difesa, ponendo le guardie nei luoghi più deboli e dando gli ordini opportuni. Dei frati 16 in circa presero le armi, tra cui i principali furono Fra Luca d'Andrea della Robbia ed il nostro Fra Benedetto. Egli era assai singolare vederne qualcuno con l'elmo in testa, la corazza sopra l'abito domenicano ed una lunga partigiana in mano correre per i chiostri e al grido di Viva Cristo chiamare all'armi. Il Savonarola fu dolentissimo di tutto ciò e Fra Domenico andava raccomandando a ciascuno di deporre le armi. Non si volessero macchiare le mani nel sangue, non si volessero opporre ai precetti del Vangelo, alla volontà del loro superiore, pregava egli. Ma tutto era vano, perché in quel momento avevano assai più forza le grida furibonda che venivano dalla piazza e gli assalti sempre crescenti che si facevano alle porte. Fu allora che il Savonarola pensò di metter fine ad un doloroso e inutile spargimento di sangue col sacrificio della propria persona, e messosi il piviale, stretta in mano una croce, egli diceva ai suoi compagni: «Lasciatemi andare, già che per me horta est ac tempestas», e voleva darsi in mano ai nemici, ma qui lo sconforto e il pianto degli astanti furono universali. Frati e secolari si strinsero intorno a lui, piangendo e gridando: «No, non ci abbandonate, voi sarete messo a pezzi, e che faremmo senza di voi?» Quando egli vide che i suoi più fidi amici gli chiudevano il varco, si volse allora a tutti perché lo seguissero, e prima fece col sacramento in mano una processione nei chiostri, poi li condusse nel coro, ove, detto loro che la preghiera doveva essere la sola arma dei religiosi, tutti si posero in orazione davanti al sacramento e cantavano «Salvum fac populum tuum, Domine!». Alcuni avevano appoggiate al muro le loro armi, altri le ritenevano ancora indosso e solo pochi erano restati a guardia dei punti più importanti. Erano circa le ore 22, la folla moltiplicava in piazza e la nessuna resistenza accresceva animo agli assalitori, mentre che la signoria, aggiungendo sempre nuove indegnità, mandava la sua guardia ad aiutarli. E nel medesimo tempo si presentavano alcuni mazzieri che a voce comunicavano un bando della signoria in cui si ordinava a ciascuno che fosse nel convento di deporre subito le armi, e il Savonarola veniva esiliato con l'obbligo di lasciare fra 12 ore il territorio fiorentino. La più parte di coloro che udirono tal comunicazione la credettero un'astuzia dei nemici. Non era facile il credere che la signoria volesse imporre agli assaliti che appena si difendevano di deporre le armi, mentre agli assalitori, causa unica di questi disordini ed in numero tanto maggiore, non solo si lasciava ogni libertà di inveire, ma anzi si mandavano aiuti. Non di meno quell'ordine fece a più d'uno chiedere salvacondotto e partirsi. Tra quelli che in quest'ora difficile e pericolosa lasciarono il convento vi fu il Valori, che si fece calar giù dalle mura di dietro, sebbene Francesco d'Avanzati ed altri ne lo sconsigliassero fortemente come cosa assai pericolosa. Esso, vedendo che in San Marco si faceva appena qualche debole resistenza, mentre che i nemici d'ora in ora crescevano di numero e di forza, volle ritirarsi a casa per raccogliere i suoi partigiani e far di fuori più energica difesa. Ma le sue case furono subito circondate da molta gente ed un mazziere venne a richiederlo che in mantinente si presentasse alla signoria. Egli si mostrò assai volenteroso d'obbedire, perché si teneva certo di potere, con la sua presenza e autorità, far vergognare i magistrati del loro procedere, onde, senza mettere alcun tempo in mezzo, s'avviò al palazzo col mazziere accanto. Passava tra la folla con la fronte alta e il viso sereno, come colui che era sicuro della sua innocenza e mai non si sentiva mancare l'animo nei pericoli. Ma non era appena giunto al canto di San Procolo quando alcuni dei Ridolfi e dei Tornabuoni, parenti di quelli che nell'agosto passato egli aveva fatti condannare a morte, gli vennero incontro e con le loro armi lo uccisero. Così la ingiuria pubblica fu vendicata con la privata vendetta e così finiva miseramente la vita d'un valoroso e onesto cittadino che era stato sempre il più potente amico del frate. La sua moglie, tratta dal rumore, s'era in questo mezzo fatta alla finestra tutta piena di spavento, e nel mentre che sentiva confusamente le disperate grida del marito e degli uccisori, un colpo di balestra partito dalla folla mandava anche lei a raggiungerlo. Allora la forsennata plebe invase subito e mise a sacche a fuoco la casa, dove avvenne questo fatto assai pietoso, che nel predare gli arnesi d'un letto vi fu senza neppure avvedersene affogato un bambinetto dormiente, nipote del Valori. E di ciò né allora né poi la signoria fece giudizio o tenne conto nessuno. Quel giorno medesimo andavano a sacche a fuoco le case d'Andrea Cambini. Quelle di Paolo, Antonio Soderini e Gio Battista Ridolfi vennero salvate contro la furia del popolo solamente dalla presenza di molti amici e di alcuni mazzieri della signoria. Si avvicinava intanto la sera e la furia degli assalitori era smisuratamente cresciuta intorno al convento. Alcuni mettevano fuoco alle porte, mentre altri, già riusciti a scalare le mura dalla parte della Sapienza, penetravano nei chiostri. Corsero costoro saccheggiando l'infermeria e le celle, poi, raccoltisi insieme, penetrarono nella sagrestia con le armi in mano e di là nel coro, sforzandone la porta. Quando i frati, che ivi erano inginocchiati e facevano orazione, si videro così improvvisamente assaliti, mossi da un subitaneo impeto naturale di difesa, alcuni con le torce accese in mano, altri coi crocifissi di legno o metallo, cominciarono a tirare con tanta violenza e rapidità sul volto degli assalitori che questi, credendosi assaliti quasi da una schiera di angeli, si diedero a una precipitosa fuga. Allora quelli che per ordine del Savonarola avevano deposto le armi le ripresero e si fu nuovamente a scaramucciare per tutti i chiostri. Nel medesimo tempo veniva suonata a martello la campana maggiore del convento chiamata la Piagnona. L'assalto e la difesa ingagliardivano e per tutto si udivano grida disperate, grande confusione e strepito d'armi. Questo fu il momento in cui Baldo Inghirlami e Francesco D'Avanzati menarono le mani. Questo è il momento in cui frate Andrea di Luca della Robbia, con la spada in mano, inseguiva i nemici per i chiostri. E fra Benedetto, salito in alto con altri compagni, faceva cadere una tal pioggia di sassi e di embrici che più volte ributtarono indietro i loro avversari. E dall'interno della chiesa più d'uno tirava con l'archibugio, fra cui un certo Enrico Tedesco, giovane biondo e di bellissimo aspetto, che in quel giorno dette prova di grandissimo valore. Sin dal principio della zuffa lui era bastato l'animo d'uscire tra la folla e guadagnarsi il fucile che ora adoperava così valorosamente e ad ogni colpo gridando «Salvum fac populum tuum, domine!»